tornati per la seconda parte di 451 frammenti sonori con Zombie, la parte di 5 Years of Hyperdub, ovvero la compilation un po' pietra d'angolo di tutta la faccenda, visto che l'Hyperdub, etichetta creata da Code9, raccoglie da Burial, che questa sera non metteremo perché abbiamo già messo, poi insomma speriamo, insomma, più o meno conosciate Burial, fondamentale percorso, insomma, di questi ultimi anni delle elettroniche visionarie urbane, ma anche extra, insomma, extraterrestri forse. E in effetti poi il giochino di Zombie era proprio questo, portare un po' al gioco, un po' come anche Quarta 330 proprio su Code9, prima in remix, ovvero riprendere quella giocosità da game anni 80. Infatti ricordavo un po' i suonettini dell'Atari e cianfrusaglie varie che provengono appunto da un passato più che remoto, diremmo presente, visto che sono tornate in maniera decisa anche rispetto al ritorno al vintage, che non è più tale, forse è diventato quasi un elemento del presente. Si parla degli anni 80, 70, 90 come se fossero robe, insomma, di questi giorni, ma d'altronde già oggetti di 3-4 mesi fa diventano vintage, non si capisce neanche bene come. Insomma, se pensiamo all'iPod, il primo iPod già è vintage, insomma, non è che è passato tanto tempo, no? Però c'è questo sorta di follia temporale. In realtà è ben poco folle la cosa, perché diciamo che c'è un certo gioco anche commerciale rispetto a tutto quello che diventa appunto vintage subito, quindi carico di emotività, e le merci, insomma, si tingono anche di romanticismo, di passato, eccetera. In questo caso il gioco è però un gioco dentro comunque una visione distopica, storta della società, del presente, quindi anche di quello che una rappresentazione futura è questa cosa che vivono ora chi fa dubstep, ma non solo. Prima con Eliseo appunto facevamo riferimenti a sud di Londra come possibile anche terreno di rivolta, lo stiamo già vedendo in molte città, grandi città, anche la nostra Roma, no? Di fatto, insomma, poi diventano momenti appunto di rottura, anche non soltanto quindi di distopia, e quindi non più il romanticismo finto, emotivo del vintage, eccetera, eccetera, ma una sorta anche di deturnment di quello che può essere il gioco, anche in riferimento a quando eravamo bambini, appunto per i 30-40 anni attuali. E i vari giochini elettronici che comunque hanno attraversato la nostra esistenza. Bene, da Zombie, che appunto già il nome dice da tutto, Zombie dice tutto. Ashed, formazione anche questa inglese, formazione che in realtà poteva anche inserirsi molto bene dentro la trasmissione precedente dell'Extra Techno, perché si muovono anche in una dimensione di techno anni zero, una dimensione molto aperta che ancora appunto non ha trovato una sua propria definizione. Non a caso i Shed si muovono anche nel terreno della dubstep, una dubstep che però è intrisa moltissimo di synth spaziali, molto vicini anche a certe dimensioni non solo cosmiche, ma anche molto tributarie di una techno chiaramente detroitiana, legata appunto a Detroit. E nel disco che hanno fatto uscire proprio lo scorso anno, nel 2010, The Traveler, è veramente un viaggio, il viaggio è veramente un viaggio dentro le dimensioni sonore che cercano di rappresentare, molto urbane, ma con anche quasi una volontà di fuoriuscita da dimensioni scure verso appunto territori ignoti, territori legati allo spazio. E questo utilizzo di sintetizzatori molto interessanti, con chiare anche influenze ai synth di chiara matrice black, che abbiamo spesso attraversato versato in 451 frammenti sonori, affrontando il tema del funk, del cosmic funk, di una certa chiaramente electro e di tutta la scena nera che si è avvicinata al linguaggio elettronico, perché spesso l'abbiamo ricordato, ma è giusto ricordarlo, esistono ovviamente dei linguaggi differenti nell'utilizzazione dell'elettronica tra la cultura occidentale bianca e quella nera di derivazione africana. Lo si sente in tante diramazioni, soprattutto anche in una certa elettronica anni 90, anni 0, dove appunto la coloritura nera emerge in maniera forte, e la sentiamo anche molto fortemente nel dubstep che andiamo ad ascoltare stasera, che stiamo ascoltando stasera. A questo punto non si tratta che di ascoltare, di farsi cullare dentro il tunnel di The Traveler, Shed e la formazione. Buon ascolto, come è dopo. E siamo rientrati in diretta dopo questo viaggio particolare attraverso Shed con The Traveler, formazione che in realtà è costituita da un unico elemento che, sbagliando, si impara, come si suol dire. L'avevamo dato già per scontato come londinese o inglese, in realtà è berlinese, e appunto ha creato questo album The Traveler assolutamente interessante, che si muove dentro la dubstep ma anche appunto in una dimensione extra techno, anche perché l'autore esce dalla dimensione techno e si è avvicinato al dubstep, come molti che stiamo vedendo anche, incrociando dati, informazioni, stanno uscendo anche da esperienze tragiche come la tecno minimale, anzi la minimal tecno, per arrivare anzi a la minimal, la minimal e basta, che non, ecco, c'è niente appunto, di tecno, hai ragione, e si stanno invece avvicinando, meno male, verso una dimensione più aperta, appunto dentro il dubstep. E da Shed andiamo a trovare un'altra formazione con un disco proprio pulito, nuovo sì, e unico, no? Il primo lavoro è Walton, giro iperdub, con un suono che abbiamo voluto unire a Shed, e proprio per il recupero di certa Detroit, come certo dubstep o cose similari, se pensiamo appunto a Shed, a Walton, ma anche all'autore che dopo è il progetto che metteremo dopo Walton, e sono personaggi che si muovono intorno a qualcosa che sta succedendo soprattutto dentro il dubstep, per questo l'abbiamo inserito qua dentro, ma i riferimenti insomma sono piuttosto chiari per quanto riguarda un suono tecnoide di Torettiano, come dicevamo prima, un po' anche lo spettro della serata, e appunto con anche un recupero, in questo caso anche zombie prima, di certi anni 80, appunto si diceva prima la coloritura nera, qua c'è un 808 storico synth che viene utilizzato in una chiave quasi jazzistica. Ci andiamo appunto a trovare Walton fresco da Hyperdub con questo dedica proprio all'808. il disco non si è incantato, è proprio un gioco che ha fatto questo grande personaggio della scena di Wolverhampton, inglese, esattamente Darren Cunningham, in arte actress, autore tra i più interessanti della scena para dubstep, come l'ha definita Max, perché esce un po' da certi canoni più strettamente legati al dubstep, anche se poi sì, la definizione canone, è abbastanza ridicola, perché insomma non ci sono canoni. Forse gli unici canoni sono quelli che ci tocca pagare noi nelle bollette. al di là di questo, formazione, appunto, progetto. Ci sono i canonici. I canonici, infatti, nella canonica. Anche, ma non che sono. Che vai spesso non tu, sono, no? Per momenti poi. Sì, momenti di riflessione. Di riflessione, di spazio, di conforto. Di spazi interiori. O sì. Di sconforto. Soprattutto di sconforto. Ecco. Ah, ma tu intendi anche i canonici al di là, insomma, di queste cose religiose. Al di là degli spazi, magari si occupano. Politico. Ecco, bravo. Quel ma disastro. Come ci capiamo? I canonici purtroppo sono tanti, milioni di milioni, milioni, le stelle di... Non possiamo fare pubblicità. No, anche perché mi sa che non esiste più. O esiste? Ah, secondo me esiste. Sono quelli anni 70, però. I salami sono rimasti quelli degli anni 70, li stanno vendendo quando possono, stagionati, sì. Beh, stagionati. Insomma, come i formaggi, no? Dire, sì, no? Stagionati, a posto. Camembert, abbiamo anche qualcun altro stagionato che però ci sta spianando la vita tra poco. Quelli ci sono sempre. No, io parlavo di lui. Ho capito, sempre super Monti, super i Monti. Allora, actress, ritorniamo a bomba, come si suol dire, e actress che è iniziata la sua diciamo esperienza musicale nel 2004, sempre questa data 2004-2005 è abbastanza importante, perché abbiamo notato c'è questa svolta. Sì, c'è questa svolta, c'è l'inizio del percorso dubstep e anche two steps, come tu inizialmente avevi ben spiegato, per arrivare poi anche a dimensioni che si intrecciano poi in parte anche con prosecuzioni futuriste, futuribili della techno, almeno un tentativo. La scorsa puntata era proprio dedicato all'intercettazione di queste nuove dimensioni tecnoide degli anni zero, poche cose interessanti che appunto si coglieva l'intenzione di andare oltre, anche se ancora la direzione non era ben definita. Molti hanno poi intrapreso la strada del dubstep, che in realtà è molto molto aperta e ricca di possibilità, come appunto lo stesso actress è riuscito ad esplorare. L'abbiamo mixato, ricordiamo, sempre con uno splendido brano di matrice fortemente detroitiana, almeno come tributo, come punto di partenza di Walton, e anche actress ha degli elementi legati alle sonorità di Detroit, soprattutto per certi usi, certe utilizzazioni di synth che vengono appunto poi messi anche in ripetizione in un ciclo quasi ipnotico. Che sicuramente actress ha una dimensione più ipnotica, ma anche giocosa, con momenti piuttosto discordanti e dissonanti, e anche un interesse verso appunto una battuta che poi si dipana e si perde nell'eco sonoro del suo dub portato in commistione con la sua matrice techno di partenza. Da actress andiamo a trovare un personaggio che è abbastanza controverso, particolare, sì, Samiyam. Samiyam, la faccenda si complica volutamente, anche in maniera insomma piuttosto compiaciuta e compiacente, perché insomma ci siamo anche noi dentro le complicazioni delle cose, ci piacciono quando un po' si inventano strane connessioni. Di fatto, se questa seconda parte di 451, dedicata in buona parte a dubstep, dubology insomma, 3, una riflessione che abbiamo fatto su probabilmente il cuore pulsante del dub, che ha ridato insomma a vita probabilmente a una dance che era di lì sul punto veramente, veramente di minimalizzarsi fino a scomparire completamente, in questo senso veramente bravi a farla minimal, più minimal di così, guardi, non si può, signora mia. Sei un grande, sì, come quando vai insomma dal panettiere, la un mia po' signora, famoso mia signora, Carmelo, le citazioni qua, Carmelo, bene, bene Carmelo. Simian, che viene dagli Stati Uniti, collegamenti, ma poi anche con Actress potevano trovare dei collegamenti strani americani, ad esempio con Panda Beer di Animal Collective. È vero. E con Simian si va dentro proprio alla faccenda Flying Lotus, appunto Animal Collective, quel giro freak, psichedelico, post noise, con riferimenti tanto agli anni 60 come a certi anni 80 reinventati, a certe regressioni statiche che abbiamo trattato, quindi una sorta veramente di nuova filiazione nel dubstep, un nuovo modo di concepire quello che è forse l'idea primordiale del dub, quella del freak, del pezzente che si mette insomma al mixer, inventa delle cose assurde, pazzesche, diventa una sorta d'astronave questo studio di registrazione, che poi insomma è piuttosto arrangiato, insomma munnezzaro, e la munnezza arriva in cielo e si trasforma in qualcosa di strepitoso, di fantasiosamente stupendo. Ti piace? Bellissimo, guarda, sei un poeta, veramente dell'impossibile. Dell'impossibile, no, quello mi piace, la poesia dell'impossibilità, dell'essere poetico. E ce la andiamo ad ascoltare quindi Samian, e poi un altro punto di collegamento appunto con Flying Lotus, il loro strano mondo tra psichedelie, dub, dubstep e quant'altro insomma possiate immaginare ultimamente. poi sono abbiamo dei chinari sintagliati musica che nata io non devo dire a te si può fare un tanzo no no no no no no no no no no Follie di Flying Lotus, in questo caso su King Midas, King Midas che di fatto appartiene alla scena dubstep, quella più strettamente insomma sud londinese dell'iperdub. Prima l'abbiamo appunto associato a Samiyam, che tra l'altro appunto collaboratore stretto anche di da progettualità di Flying Lotus, e così abbiamo provato insomma ad allargare la faccenda e a quello che potrebbe essere o quello che è già di fatto un allargamento, un'estensione forme nuove date appunto dal dubstep e da quelle possibilità dentro un genere che è assai ricco comunque di riferimenti, di rimandi, ma anche di prospettive e di conseguenza anche l'unione con una sorta di fricadelia assurdista, anche forse un po' in recupero con Jazzufi, che ad esempio abbiamo messo sulle elettroniche statiche di qualche settimana fa. Un mondo insomma che si apre veramente riesce appunto da questa apertura a dare nuove possibilità, cosa che insomma ci è piuttosto favorevole. Insomma, siamo anche piuttosto contenti che una matrice così importante come le musiche dance negli ultimi decenni insomma stia ritornando a vivere insomma sul serio, a vivere insomma, non probabilmente a ripetersi in maniera stanca su se stessa. E qui andiamo a trovare adesso uno dei capisaldi, uno dei personaggi più importanti della scena dubstep. L'abbiamo affrontato, intercettato nel corso dei discorsi di stanotte, in realtà l'abbiamo anche citato in passato in altre trasmissioni. Nuova elettricità. Nuova elettricità, probabilmente. E la cosa interessante è che diciamo che i gruppi cardine come Burial, Digital Mystics, li abbiamo già passati e manca solo lui, diciamo, come entrata, diciamo, dalla porta principale di una trasmissione di 451. Si tratta di Shackleton, personaggio fondante appunto della scena dubstep. Inizia proprio sempre nel fatidico 2004 il suo percorso musicale con Stalker su Mordant Music, musicista del Lancashire inglese. Dunque rientriamo nel discorso inglese. Sam Shackleton appunto porta avanti il suo discorso legato al dubstep, ovviamente rimanendo connessi, ma come gran parte della scena dubstep, ha una matrice originaria techno, una techno sicuramente dalla più sperimentale a quella più tendente alla scena dance. Per noi non c'è differenza, non è un discorso appunto tra techno intelligente, techno formale, techno elaborata e techno non elaborata, è un discorso appunto di qualità musicale, di linguaggio e di attitudine che ritroviamo spesso in vari settori che vengono considerati molte volte di secondo grado dai addetti ai lavori, dai grandi cultori della musica sperimentale. Questo noi l'abbiamo sempre voluto contestare dal punto di vista proprio concettuale e materiale, non è così, e lo abbiamo appunto riscontrato in personaggi come Shackleton e in tanti altri che abbiamo sentito stasera. Il disco che andiamo a sentire, che è un disco assolutamente splendido, un EP proprio di ultimissima uscita, è uscito appunto nel 2011, Dead Man, che è tutto, insomma, un programma. Dead Man, l'uomo morto, insomma. L'uomo morto, c'è, cioè, anche l'uomo morto del macchinista, l'uomo morto, no, cos'è? Dead Man, il vuoto, treno, no? Cosa? No, il treno, c'è anche l'uomo treno. Morto nel treno. Treno. Ah sì, ma è l'uomo morto, poi c'è anche quello che appendi le abiti, insomma, ci sono vari uomini morti, anche in giro. Beh, quelli ci sono molti dead men. Quanti morti ci sono in giro. Qualche volta siamo anche noi, alle volte senza rendercene ma conto. Più tu, comunque, più io. Tu, Vabbè, comunque, allora io qualche volta mi sento dead man, probabilmente lo sono, e Shackleton non vuole raccontare, non la prende così seriamente. No, non la prendo seriamente. Dead Man diventi un dead man veramente. Ma dead man va oltre. Dead man oltre, sì, perché è cosciente di essere dead man. Dead il man. Problema è quelli che sono dead man e non se ne rendono conto, credono di essere quello, vivi. Quello e questo invece dead man è convinto e vive la sua dimensione di morto che cammina. Shackleton dunque racconta la storia di tutti noi dead man. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Everyone starts from point one. No one. Sequenze tribali e metropolitane. Shackleton l'abbiamo ascoltato sia dall'album EP del 2011 Dead Man, sia insieme a Pinch in questo splendido lavoro uscito sempre a distanza molto molto ravvicinata tra 2010 e 2011, un album sicuramente da seguire, anche questo da riascoltare, perché è un disco assolutamente seminale nell'ambito del dubstep, come d'altronde Deadman, ma Deadman è un EP e dunque ha un valore, seppur importante, differente, mentre questo è un album uscito per la Honest Jones Records proprio nel 2011. Grande, grandissimo disco, ve lo consigliamo, Pinch and Shackleton, assolutamente. Da Pinch and Shackleton e queste dimensioni tribaliste dentro una sorta di primigenia della metropoli mischiata quasi a dimensioni ancestrali primordiali, connesse anche alla nostra dimensione invece urbana, metropolitana e tecnologica. Abbiamo anche affrontato delle puntate rispetto a questa dimensione tra passato, presente e futuro, anche in termini quasi in una dimensione antropologica, e sì. Ci andiamo invece adesso a spostare, a trovare una formazione che ricorda un'altra formazione molto famosa nell'ambito del jazz funk anni 70, ma è un'altra cosa. Sì, i Danter, viene subito alla mente la storica formazione di Herbie Hancock, quel funky, incredibilmente funky, incredibilmente cosmico, incredibilmente psichedelico, soprattutto insomma nel primo disco che con grande gioia abbiamo passato più di una volta qua, 451 frammenti sonori. I Danter, un progetto di Anthony Williams, a dire la verità, come i Danter ha stampato fino, arriviamo sì, fino ai nostri giorni, però è più attivo probabilmente come Edison Groove, vicino anche alla Tectonic, quindi anche all'inizio di trasmissione all'OEFA, a Scream, quindi insomma un riferimento chiaro ai maestri del oramai, boh, sì, forse si possono già definire tali, i Danters. Technopolis, dal suo nomad, un suono veramente nomade ed un suono decisamente spinto su un futurismo dub techno e appunto astratto nella sua ritmicità pur tagliente, insomma ci porta lontano verso mondi appunto Technopolit, bello, bravo, bravo. Vabbè, te la sei non... studiata l'altra notte, cosa mi sono studiato qua? Ma insomma, se puoi sempre inventare dei neologismi. Sì, apposta. Technopolit. Va bene, così. A me piace. Tecnopolitici. Qualcuno si arrabbia, però qua. Dai. Sì, però va bene. E Dantar. Ah, ma stavi chiamando il brano. Io pensavo prendessi. Ah, prendevi tempo. Va bene, allora lo mandiamo. No, hai detto di Dantar. Scusa, non mi raccomando. Non, se vuoi non lo mandiamo. Thank you.

face to face to face yourself. Distance, ascoltato, un progetto decisamente urbano, decisamente tecnoide, decisamente distopico, come già dalla copertina del suo splendido disco, tra l'altro stampato anche per Planet Mu, e questo la dice lunga, insomma, sul suono techno anche europeo, ovvero etichetta di Mike Paradinas, che l'abbiamo ritrovata anche la scorsa trasmissione, appunto, su quel suono post techno, come l'abbiamo chiamato, e in questo caso, insomma, oltre che Benga dentro Planet Mu con insomma produzioni legate a Yuzik, a questa splendida realtà sonora più viva che mai, appunto la Planet Mu, anche Distance con i loro My Demons, Night Vision, pezzo che si connette decisamente con le ritmicità urbane e con quell'afflatto cosmicheggiante, quella fuoriuscita, quella voglia, insomma, di escapismo che c'è dentro molte delle musiche che abbiamo questa sera attraversato qua a 451 frammenti sonori, progetto di cui non si sa granché, Distance, ma finiamo proprio nel mistero questa sera con un progetto veramente degli ultimi giorni, progetto con un immaginario stupefacente, incredibile. Sì, l'abbiamo scoperto, diciamo, proprio addirittura d'arrivo, formazione nuovissima, sono usciti due EP recentemente. Formazione a progetto, chissà. Infatti le notizie non ci sono da nessuna parte, anche sul loro sito rimangono estremamente anonimi, non c'è biografia. Forse uno, sì, infatti adesso rimaniamo appunto nel vago, c'è soltanto la possibilità, una foto meravigliosa dentro il loro sito che merita, ve lo daremo anche, una foto veramente geniale, e soltanto delle informazioni relative alla possibilità di fare un download di 4 brani inseriti nel loro sito o nel suo sito. Si tratta di Old Apparatus, se volete andare sul loro sito è oldapparatus.org, che è sicuramente una formazione molto molto interessante. Abbiamo ascoltato queste pitch, ha impressionato per una dubstep assolutamente verso il futuro, molto molto astratta, molto scura, molto profonda, ricca di grandi potenzialità. A questo punto non si tratta che seguire il percorso di questa formazione e poi vedere che cosa troveranno questi personaggi o questo personaggio nel corso del proseguo della loro esperienza musicale. Molto interessante questo lavoro, che è omonimo, questo EP. Ci andiamo ad ascoltare infatti una traccia, direi che possiamo già salutare a questo punto. Salutiamo. Sulla visione distopica sia di Distance. Picca questa sera proprio, ti piace? No, l'utopia portata al nero. Hai ragione. Distopia, Blade Runner, Solaris, Tarkovsky. Solaris. C'è Tarkovsky. Stalker. È una domanda a quiz. Facciamo le domande a quiz. Ecco. Comunque tu pensi che siano, insomma, Old Apparatus? Secondo me è un progetto. Così te la cavi facile. Può essere anche il progetto di uno. Vabbè, dai. Secondo me è più di uno. Più di uno? Uno più uno? Due. Bravo. Grazie, ho passato l'esame della terza elementare. possiamo andare anche oltre. Anche della prima, hai ragione. Comunque, a questo punto, vi ricordiamo, dato che stasera non l'abbiamo mai fatto, di visionare, di accedere al nostro blog noblog 451 frammentisonori.noblogs.org, curato in maniera eccelsa dal punto di vista grafico, ma anche dal punto di vista contenutistico, dal nostro Albano Lorenzo, che chiaramente lo salutiamo. E la cosa importante questa volta, devo dire, fino ad ora stiamo riuscendo a tenere bene la barra rispetto all'inserimento in termini temporali adatti sia dei formati MP3, che potete, ve lo ricordiamo, sia ascoltarli sul blog sia anche scaricare le trasmissioni chiaramente gratuitamente, perché non abbiamo assolutamente intenzione di avere nessun copyright. Lo dici pure? No, diciamo un anti-copyright, perché lo diciamo, e poi anche altre ridere, sì, lo sì, so, infatti, però sì. Vabbè, dai, la tua voce potrebbe essere soggetta a copyright, sai. La tua no? La mia no. La tua no. La mia è più dozzinale. Allora, andiamo oltre. Avete anche la possibilità di poter vedere un minimo di informazione rispetto ai brani inseriti nelle trasmissioni. E ultimamente stiamo non sempre. Dipende da come ci giriamo. Vabbè, ma se fai così allora non dico più niente. Beh, scusa, non fare il boicottaggio interno. No, va bene. Dai, sì umano. Sì. Allora, basta, cosa devo dire? Niente. Basta. Che ne so, boicotto, guarda. Eh? Ti boicotto salutando. Va bene, salutiamo Monti. Ma le pianure. Ma sarà già a dormire a quest'ora. Colline. Nelle bare, no, poi torna. Ma me lo fanno morire questo qua. Me lo fanno già morire. Morto, secondo me. Ecco chi è Dead Man, è lui. Sì, va bene. Che ti devo dire? Ma niente, cos'è? Buonanotte. Ah, chiudiamo così, va bene. Vuoi continuare proprio? No. Un fiume in piedi. Un fiume. La porta, insomma. Lasciamo stare, un fiume di qualcos'altro. Va bene, ovviamente vi aspettiamo per la domenica prossima, sempre alle 23:35 circa. Buonanotte, buon Monti a tutti. Buon Monti a tutti. Oda Paratus.